Achtung, Liebfrau Milch im Porsche, un paar Vorsprung durch Technik. E buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Mighty FM. Chi vi parla è sempre Claudia Mighty Mau dai nostri studi di Lisbona, e lo facciamo per parlare di un altro appuntamento classico di questo periodo dell'anno, sempre verso metà fine ottobre. A Bologna c'è una serata particolare e speciale, di grande valore culturale, anche politico, e poi tutto basato sulla musica, quindi diciamo che unisce proprio, diciamo, quali sono anche gli ideali di Mighty FM. Stiamo parlando di Indie Pride, la serata in cui band italiane della scena alternativa indipendente salgono sul palco per fare proprio uno statement, una dichiarazione contro l'omofobia, il bullismo e il sessismo. Un evento che è nato nel 2012 su idea di Antonio Peressoni, che lavora nel mondo della musica come ufficio stampa e promozione, quindi anche avendo contatto diretto con i musicisti ed essendo una lesbica militante, ha deciso insieme ad altre ragazze, perché bisogna dirlo, la componente femminile è al 100% di questa idea, di questo progetto, che poi si è concretizzato in un'associazione, è nata appunto l'idea di fare delle serate in cui musicisti si esponessero in un certo senso, in un periodo anche in cui in Italia c'era molto fermento, molte polemiche riguardo ai famosi Dico, riguardo al riconoscimento delle unioni civili, che poi insomma sappiamo com'è andata a finire. E dopo questo intro un po' stile comizio, parliamo della musica. Infatti, chi è che stiamo già ascoltando in sottofondo? Una delle 5 band che parteciperà a questa edizione 2017, che bisogna dirlo, si svolgerà questo sabato, dopodomani, 28 ottobre, dalle 19.30, presso il TPO, come da qualche anno a questa parte succede, dopo le prime due edizioni invece al Locomotive, e si tratta di un'anteprima, ovvero Cristallo, questo nuovo progetto, questo nuovo nome, questo side project che sceglie la lingua italiana e che si è concretizzato in un EP omonimo che contiene 4 tracce. I suoi autori sono Francesca Pizzo e Angelo Gelo Casarrubia, cari amici già conosciuti nella scena italiana come Melampus. Questo nuovo progetto, abbiamo detto, contiene 4 tracce, e ne stiamo ascoltando la prima, che si chiama Eco. Tu sei la memoria di un eco. Tu sei la memoria di un eco. Tu sei la memoria di un eco. Tu sei la memoria. e finisce col primo pezzo di questo EP di cristallo così minimale, dilatato ed intenso. Ascolteremo tutto l'EP in questa trasmissione speciale dedicata ad Indie Pride, la seconda band che stiamo ascoltando in sottofondo. Sono i Blindur, un duo nato nel 2014, composto da Massimo De Vita, cantautore, polistrumentista e produttore, e Michelangelo Bencivenga, polistrumentista. Hanno pubblicato un album omonimo quest'anno, per cui ci stiamo ascoltando Aftershock. Vagano i soliti vecchi fantasmi, sicurezze presunte e problemi irrisolti. Ci sono troppe strade. Blindur dall'islandese ceco, una band che guarda all'Islanda da una parte e al folk irlandese dall'altra, e che da quando si sono formati hanno ricevuto molti riconoscimenti e premi. Dal premio Fabrizio De André nel 2015, il premio per Pierangelo Bertoli nello stesso anno, il premio Buscaglione sotto il cielo di Fred nel 2016, e poi quindi alla fine è arrivato questo debutto per Tempesta Dischi, da cui ci ascolteremo tre pezzi, e questo è il primo, si chiama Aftershock. Ma andiamo avanti parlando degli obiettivi e dei valori di Indie Pride. Qual è la mission di questa associazione? L'abbiamo detto, è debellare l'omofobia, il bullismo e il sessismo attraverso la musica, perché la musica in tutte le sue forme è il principale mezzo di comunicazione per sensibilizzare ed informare il vasto pubblico. Per questo gli artisti sono proprio la base, le fondamenta dell'associazione e lo strumento attivo di divulgazione, e lo fanno salendo appunto sul palco, come faranno i Blindur, come faranno i Cristallo e le altre tre band che non abbiamo ancora nominato, ma che chi è presente in rete su Facebook avrà visto tutti i comunicati dalla pagina ufficiale di Indie Pride. Saranno Management del Dolore Postoperatorio e Spagna Circo Este e Fast Animals and Slow Kids. Finisce questo primo pezzo del Blindur e arrivano i Management del Dolore Postoperatorio, abbreviato anche in MADE DOPO, gruppo hard pop italiano di Lanciano nell'Abruzzo. Vedo anche che insomma c'è una presenza importante del centro Italia, un po' delle periferie di quelle che sono insomma le capitali della produzione musicale nostrana. E ci ascoltiamo dal loro ultimo album, un incubo stupendo, Il tempo delle cose inutili. Se il tempo avessi un po' di tempo per me, se il tempo avessi un po' di tempo per me, se il tempo avessi un po' di tempo, gli spiegherei le cose che ho imparato da bambino, preziose come la brezza marina agli occhi di mia madre, e poi le sue parole, le mie medicine. Questa è una carezza contro la tristezza, questa è una carezza contro la tristezza, questa è una carezza contro la tristezza, contro la tristezza. Nel tempo delle cose inutili, l'unica cosa preziosa è il tempo che ho passato con te. Nel tempo delle cose inutili, l'unica cosa preziosa è il tempo che ho passato con te. stai chiedendo scusa per le ferite con le cicatrici, o queste qui che stanno sanguinando ancora. Vedevo sul suo viso i fuochi d'artificio, io vedevo sul suo viso i fuochi d'artificio, io vedevo sul suo viso i fuochi d'artificio, i fuochi d'artificio. Management del dolore post-operatorio, che prende il nome proprio da un incontro fortuito, fortunato e anche un po' miracoloso nel 2006 a Lanciano, tra i corridoi dell'ospedale locale. I membri della band si incontrano perché erano lì ricoverati dopo un incidente automobilistico. Inizia quindi un'attività, il primo album nel 2008, Mestruazioni, seguito poi da altri quattro, per arrivare al 2017 con un incubo stupendo per Tempesta Dischi, Garrincia Dischi. L'unica cosa preziosa è il tempo che ho passato con te, nel tempo delle cose inutili. L'unica cosa preziosa è il tempo che ho passato con te. Non era un sogno, non era un sogno, non era un sogno. E finisce questo primo pezzo, Management del dolore post-operatorio, che ascolteremo oggi per parlare di Indie Pride 2017, sabato a partire dalle 19.30 presso il TPO di Bologna. E come ho scritto nella presentazione di questa trasmissione, è un evento che non poteva, da un certo punto di vista, che nascere a Bologna, città che è sempre stata all'avanguardia sia per la scena musicale indipendente sia per il movimento e la lotta per i diritti LGBT, ed è sempre dalla stessa regione, pardon, dalla Romagna, da Forlì, che arriva il tango punk incendiario degli Espagna Circoeste. Hanno pubblicato anche loro un nuovo disco quest'anno che si chiama Scienze della Maleducazione, e questa è La Veterana. Entro nella bocca un mondo da esplorare. Quando la candela è accesa, se ti sale sulle ossa può schiacciare. Yeah, yeah, yeah, oh. Super carboidrati a chili e la mia libido besa. Se mi mangi il bagno no, non lo puoi fare. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Ancora di più. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Ancora di più. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. E immagino che il live degli Spagna Circoeste sarà quello che creerà più caos e fuoco e salti sotto il palco del TPO. E noi però non ci saremo, per la prima volta dopo 6 anni, per questioni logistiche, arriveremo forse, se qualche anima pia viene a raccattarci all'aeroporto di Bologna, arriveremo in tempo per i DJ set a cura di Momo e DJ Trinity, che concluderanno la serata. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Ancora di più. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Ancora di più. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. Amore mio vai giù, vai giù. e la quinta band che si esibirà sul palco del TPO sono i Fast Animals and Slow Kids, un gruppo diventato molto molto popolare. Ricordo che qualche mese fa sono state delle date sold out, forse è stata anche necessaria una seconda data al Locomotive, un gruppo nato a Perugia, appunto ritorna il centro Italia, un po' le periferie dell'impero per quanto riguarda la produzione musicale. Pubblicano per la Woodworm, esistono dal 2007, hanno fatto un album anche loro quest'anno che si chiama Forse non è la felicità, in cui ci ascoltiamo il primo pezzo che lo apre, che si chiama Asteroide. Slow Kids, che saranno anche loro sul palco del TPO per dire no all'omofobia, per un evento, un'iniziativa che abbiamo detto ha avuto luogo il primo anno nel 2012, anche sulla scorta del fatto che Bologna fosse stata la sede scelta per il Pride nazionale. Da quella prima edizione ricordiamo la partecipazione di Drink to Me, Yoris Eyes, Two Pigeons, I Cast the Eagles, Maria Antonietta. E in queste sei edizioni c'è stata solo, diciamo, un'intrusione straniera nel 2014 con il mio caro amico Joel Gibb e i suoi Den Camera. Se non ne parliamo dell'edizione del 2017, sabato sera già ho letto in giro che le prevendite Early Bird sono esaurite, il prezzo all'ingresso sarà di 15 euro per 5 concerti, 2 DJ set. E se c'è sempre un buon motivo per andare ad ascoltare della musica dal vivo, andare ad una serata del genere e manifestare quindi con la propria presenza la propria opinione, la propria posizione di contrasto e opposizione a omofobia, bullismo e sessismo, è un ulteriore ottimo motivo per esserci. Delle band partecipanti a Indie Pride abbiamo deciso di passare dei pezzi delle loro ultime produzioni, perché lo stesso Indie Pride è sempre molto molto attento a tastare il polso della situazione della musica indipendente italiana, anche appunto intercettando fenomeni come quello dell'hip hop nell'edizione del 2014 e poi nel 2015 ricordiamo gli amici, ma anche insomma un po' punte di diamante secondo me della produzione alternativa indipendente italiana, ovvero Lorenzo, Nada, God Bless Computers, Ofelia Dorme, Populous, fino all'anno scorso, dove abbiamo visto invece un monumento della musica italiana, Nada accompagnata con i Toys Orchestra, Pierpaolo Capovilla, fino alle realtà più nuove, più fresche come Georgines o più particolari, Sghembe, Quirky e Arti, potremmo dire, come scriverebbe Pitchfork, relativamente alla rappresentante di lista, o di una finezza incredibile come aereo. Questo inizio un po' alla YouTube dei tempi d'oro ci riporta ai management del dolore post-operatorio. Qui ascolteremo diversi pezzi perché l'album ci è piaciuto molto, un incubo stupendo, e in questo caso è Esagerare Sempre. Piace molto anche questo inno un po' edonista, molto giovane, questo stile, questi testi un po' sbruffoni, un po' cazzoni, però in molti casi molto molto intelligenti. Vogliamo tutto e tutto non è abbastanza. Vogliamo tutto e tutto non è abbastanza. Vogliamo tutto e tutto non è abbastanza. Vogliamo tutto e tutto non è abbastanza. I volumi si abbassano, i ritmi rallentano, siamo tornati alle atmosfere particolari di Cristallo, ovvero Francesca e Angelo Gelo, seconda traccia dell'EP omonimo che presenteranno in anteprima sul palco del TPO sabato, si tratta di Primavera. Francesca Pizzo, bassista, tatuatrice, pittrice, musicista già conosciuta nella scena bolognese per diverse collaborazioni con altri musicisti, anche con la nostra amica Vittoria Burattini, insieme a batterista già di Buzz Aldrin e fotografo Angelo Gello Casarrubia, nel 2011 danno vita al progetto Melampus, in cui pubblicano due album, uno nel 2012, Odd Road, e uno nel 2015, Hexagon Garden, e adesso proseguono la loro ricerca musicale con questo progetto in italiano dal nome Cristallo. Siamo tornati ai Blindur, duo napoletano che dai primi due anni di attività ha suonato tantissimo dal vivo, più di 150 concerti tra Italia, Belgio, Islanda, Francia, Germania e Irlanda, partecipando anche al prestigioso Airwaves Festival a Reykjavik. Cool. riesce a dormire. E non servirà a niente costringersi a dimenticare. Col piombo nel cuore devo starmene sveglio, ma figuriamoci se poi va meglio. C'è gente che ride in una mia fotografia, saluta con la mano come sapesse che sta andando via. Mi lasciano solo in un cortile nel caldo di maggio per tornare indietro e fermarli. Non basterà un fotomontaggio. Arriva il momento del banjo versione of Monsters and Men, loro stessi islandesi che però prendono moltissimo dal folk irlandese, e questo pezzo sempre dell'album di debutto omonimo di quest'anno è Foto di classe. Che si iscrive fermamente in quella tradizione o ondata recente degli ultimi anni dell'alt folk, dell'indie folk, che vede anche tra i suoi nomi Mumford & Sons o Lumineers, insomma tutti i suoni a cui siamo stati molto abituati questi ultimi anni e che sono anche in molti casi diventati mainstream. Siamo tornati a Fast Animals and Slow Kids. Io, ascoltando i dischi, ho scelto a sentimento i pezzi che mi piacevano di più e non sono i singoli, e anche in questo caso un altro pezzo di Forse non è la felicità è Montana. Yeah. la stabilità e crosca per le bestie, canta in modo appassionato e monoromizzi dei FASC, Fast Animals and Slow Kids, un gruppo che, come dicevo, ho sempre sentito nominare ma non ho mai ascoltato, per questo sono sempre molto grata agli eventi che mi danno l'occasione di ascoltare quello che normalmente non mi capita di poter sentire ed apprezzare, sebbene il timbro graffiato non sia proprio tra i miei favoriti in assoluto nel mondo della musica. Sono molti pezzi di questo disco che mi sono piaciuti, ho avuto anche molta difficoltà a scegliere cosa passare. Montana dei Fast Animals Slow Kids, e ritorniamo agli España Circo Est, un gruppo nato pochi anni fa nel 2013, hanno esordito con un primo EP, il Buca Testa, seguito poi dal primo album nel 2014, La Revolución de l'Amor, e suonando in tantissimi paesi europei come Germania, Austria, Polonia, Belgio, Svizzera ed Olanda, e chiaramente anche la Spagna, facendo anche da supporto ai concerti italiani di Manu Chao e Gogol Bordello nel 2015. Sempre dall'ultimo album di quest'anno, Scienze della Maleducazione, invece adesso ci ascoltiamo da fuori. Cadere sopra di noi un po' di polvere è la spina dorsale di chi sta in piedi davanti alle rate, è quel che è restato dopo quel che ci ha rubato. È la nazione intera, è la primavera, è la mia preghiera in mezzo alla bufera. Amore, mi ascoltami, il sangue che ho non l'ho mai rubato, mai lo tornerò. Io ti dono la vita con le mie ossa rotte, qui mi riempiono di botte che non le conto più. Il sangue che mi hai dato mai lo venderò, vorrei restarti a fianco ancora per un po'. We'll Devo dire che tra tutte le band che si esibiranno all'Indie Pride, gli Spagna Circo S sono quelli che un po' meno si avvicinano ai gusti di Mike FM, come ai tempi dell'ondata Manu Chao, anche Scappé, non so appunto sempre se per motivi di gusto o per motivi generazionali, io sono sempre rimasta un po' lontana da questa scena. Ecco, probabilmente agli ascoltatori di questa trasmissione non interessa il fattore biografico di quanto noi siamo o meno vicino a una certa scena, ma Might FM ha questa vocazione di essere assolutamente legata ai gusti personali e alla biografia e al gusto più o meno soggettivo, ed è per questo che abbiamo scelto di mettere 5 pezzi del management del dolore post-operatorio, perché ci sono piaciuti molto molto, e uno di quelli che ci è piaciuto di più è questa, Visto che te ne vai. Sarà una gran serata, saranno dei gran concerti e io sono qui che da una parte rosico, da una parte spero di poterli vedere ancora dal vivo per un'edizione di Indie Pride che per la prima volta vede tutte le band partecipi cantare in lingua italiana, e non era mai successo, e anche una band, ovvero dei musicisti cui progetti precedenti prevedevano l'uso della lingua inglese, quest'anno si presentano con un progetto in lingua italiana. Parliamo ancora dei Cristallo. Grazie per la sigaretta e non dimenticare l'immondizia. Ciao. EP di debutto che esce ufficialmente domani, 27 ottobre, per cui ringraziamo la band e Antonia per l'ufficio stampa SBAM, e questo terzo pezzo dell'EP che ascoltiamo si chiama Tutto passa. Potrei usare queste aggregazione di atomi o molecole allo stato solido secondo una precisa struttura interna che determina all'esterno una forma poliedrica. Questa è la sintetica presentazione della band sulla loro pagina Cristallo Music su Facebook, e sono sicuramente i loro suoni quelli che ci sono, insomma, più familiari. Pride 2017, sabato 28 ottobre, abbiamo detto la sesta edizione, per una presenza, una visibilità, un impegno sempre crescente da parte di questo gruppo di combattive ragazze che nel 2014 hanno anche avviato una collaborazione con il progetto Le Cose Cambiano, portando in giro per l'Italia un tour congiunto di incontri durante i quali portare dialogo e confronto sui temi dell'omotransfobia e bullismo. Non saremo liberi, la ribellione è morta, il peggio che ci aspetta è avere ancora scelta, dietro al collo. Siamo tornati al suono veramente potente, saturo, trascinante dei Fast Animals Slow Kids. Questo pezzo si chiama Ignoranza, un gruppo che ha esordito nel 2009 con un EP dal titolo Questo è un cioccolatino, e che già dall'anno successivo si è trovato ad aprire concerti di band come Zen Circus, il Teatro degli Orrori, i Ministri, e nella stessa estate ha partecipato e hanno vinto il contest di Italia Wave Love Festival, ovvero il FU Arezzo Wave, come miglior gruppo emergente italiano. Ignoranza, un pezzo tiratissimo, quasi hardcore. Dicevamo della carriera dei Fast Animals Slow Kids in perenne ascesa fin dal primo album del 2011 prodotto da Andrea Appino, il frontman di Zen Circus, dal titolo Cavalli, poi nel 2013 Ubris, nel 2014 Alaska e nel 2017 Questo forse non era felicità. Siamo arrivati ad ascoltare il terzo pezzo scelto dall'album d'esordio dei Blindur, omonimo, 2017. Abbiamo detto di quanti riconoscimenti e premi abbiano ricevuto dall'inizio della loro carriera, e oltre ad aver diviso il palco, come si dice, con i grossi nomi della scena indipendente italiana come Tre Allegri Ragazzi Morti o Giorgio Canali, Cristiano Godano De Marlene, Io Sono un Cane, Dente, Banda Bardot, Zen Circus, hanno anche suonato insieme a Barzin nella data napoletana dell'ultimo tour del poeta e cantautore canadese, fino a collaborare con Birgir Birgisson, storico fonico e produttore di Sigur Rossa. Ma dicevamo, di questo album d'esordio abbiamo scelto tre pezzi, adesso il terzo e ultimo che ascoltiamo è Contrametafore. Forse il testo, la mia voce che è ingolfata e che non va. Piove, non mi importa, perdo tempo a starmene seduto fuori. La porta resta chiusa, forse sono tutti addormentati. Proverò a bussare altre 100.000 volte nel frattempo. Insomma, se posso continuare un po' col pippone da vecchia militante, fa piacere che band di giovani maschi accettino l'invito a partecipare ad un evento del genere, perché anche nell'ambito della musica indie alternativa non è detto che poi certi principi di apertura mentale siano poi così condivisi anche dagli ambienti che poi ti piacciono a livello musicale, come spesso purtroppo anche nell'ambiente dei centri sociali non è detto che i cari compagni duri e puri siano poi così più aperti di gente di opinioni politiche diverse. Ma dicevo, basta col pippone militante, ma parliamo invece della militanza di Indie Pride, parliamo delle collaborazioni, dei progetti che hanno portato avanti nel corso degli anni, la collaborazione che va ancora avanti con Gender Bender, il festival che inizia appunto immediatamente dopo Indie Pride, le campagne Musica per Immagine e Diritti, Io Dico No all'Omofobia, Affacciati, i rapporti con l'associazione universitaria UnLGBTQ, e poi fino ad arrivare al festival dell'anno scorso e alla campagna Citazioni attraverso l'hashtag appunto Cit minuscolo Azioni maiuscolo, una lotta musicale a suon di selfie dove il partecipante si propone di scattarsi una foto con la frase di una canzone scelta che trasmetta concetti di uguaglianza, inclusività, apertura, rispetto ed autodeterminazione, mentre la campagna del 2015 hashtag Affacciati si invitava le persone a mettere la faccia dentro una cornice e farsi delle foto postandole, diffondendole nei vari social. Il 2016 è anche l'anno in cui Indie Pride si costituisce come associazione e raddoppia anche l'appuntamento, perché nel mese di giugno, nell'ambito del Biography Festival nel Parco del Cavaticcio, organizza un'altra serata dove si esibiscono Giungla, Lim e Niagara. Ma siamo tornati ancora all'edizione del 2017, ai management del dolore post-operatorio, con questo pezzo molto interessante che si chiama Marco il Pazzo. E non abbiamo detto invece un'altra cosa: in ogni serata che si rispetti ci sono dei presentatori, anche un po' per riempire i tempi vuoti dei cambi palco. In passato abbiamo visto Bonnie Bird, abbiamo visto McNeil, quest'anno Bonnie Bird sarà affiancata niente po' di meno che da Alberto P, noto conduttore radiofonico bolognese come Casual Friday, ormai adesso non esiste più la trasmissione, però presente nella scena LGBTQ e musicale anche come membro degli Odel di Stone. Vediamo un morso e diventate come noi. Marco aveva sempre odiato i doppioni, le vetrine, la moda, le figurine, la gente fotocopiata, radiografata, scannerizzata, surgelata. E in mezzo ci sei pure tu, che c'hai l'asterisco nel menù. E quindi tira fuori lo striscione, lo slogan è una grande invenzione. La piazza fa da cornice al grido, tua mamma è una fotocopiatrice. E siamo pazzi, siamo tutti pazzi. Marco il pazzo, management del dolore post-operatorio, un testo molto divertente, strampalato, questo bambino diverso, strano, che viene un po' abusato sia dai genitori che dalla maestra, che diciamo dall'ordine precostituito che vuole normalizzare, che non accetta le stranezze, e decide di fare una manifestazione in piazza radunando tutti i bambini un po' matti come lui. È molto molto intelligente e divertente. E torniamo al Latin pop tango punk direttamente da Buenos Aires a Forlì e Spagna Circo Este, con il terzo pezzo che abbiamo scelto di far sentire dal loro ultimo album Scienze della Maleducazione. Si tratta di Santa Maria. Santa Maria, mi primo, mi dico che toda la noche passata il chorro. Santa Maria, me pongo en la mano de Dios. Santa María, aquí todo tiembla, si vamos a sentarnos que rindes igual. Santa María, confío en el rostro de Dios. Santa María, Santa María, Santa María, Santa María. Santa María, ¿dónde está el techo que ponga tu mano a cubrir mi casa? Santa María, confío en el rostro de Dios. Santa María, el diablo se ríe, almuerza con la piedra que él destruyó. Santa María, me pongo en la mano de Dios. Santa María, Santa María, Santa María. Vende che addirittura vanta un'apparizione in TV, e visto che sono stati protagonisti di una performance live il 29 dicembre 2015 con il brano La Revolución del Amor, partecipano al secondo episodio della serie TV di Rai 1 Tutto può succedere. Ale. Pongo en la mano de Dios. sicuramente l'esibizione che si prospetta la più incendiaria. Non oso immaginare cosa succederà sotto il palco del TPO, partner da diversi anni e sede dell'Indie Pride. E passiamo invece ancora a Cristallo, quindi un passaggio tra i due estremi, proprio le band musicalmente più distanti come stili che parteciperanno a questa esibizione. Abbiamo ascoltato tutto l'EP di esordio che esce domani ed è stato registrato nel studio casalingo, registrato e mixato nello scorso luglio, e che appunto uscirà edito da Asteria Calisa Cane Nero Dischi. Questa è l'ultima traccia, spero di poterli recuperare, ma già mi hanno rassicurato che ovviamente inizieranno a fare altri concerti. Questo ultimo pezzo dell'EP si chiama Come Pioggia. Grandissima atmosfera per questo pezzo conclusivo dell'EP di Cristallo, che si esibiranno per Indie Pride, che è poi la serata del festival, è la serata culmine dell'attività dell'associazione, sebbene durante l'anno ci siano altre attività. Ovviamente quello di organizzare una serata con le band dal vivo è, diciamo, il fulcro di questa realtà politica, che appunto unisce la passione per la musica e per la musica indipendente e la lotta contro l'omofobia. Cristallo che ha fornito l'ispirazione per questo nuovo progetto, ma dicevamo di come la serata dei live sia il fulcro dell'attività di Indie Pride. Leggiamo dal sito indiepride.it, dove si possono trovare tutte le informazioni sulle campagne, la mission, eccetera eccetera. Si legge: quest'anno l'evento del 28 ottobre non sarà un punto di arrivo, sarà un nuovo inizio, e vi invitiamo a essere dei nostri per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi, quali sono i nostri nuovi progetti e chi ha deciso di essere al nostro fianco in questa battaglia. Quest'anno saremo ancora più visibili e molto più rumorosi. E rumorosi appunto l'abbiamo sentito e lo stiamo sentendo anche adesso con l'ultimo pezzo dei Fast Animals and Slow Kids, pezzo omonimo che dà titolo all'album Forse non è la felicità. Adesso elaboro una scusa che mi preservi dal piacere di aver guardato quella volta e quella sola negli occhi di chi avevo accanto. Oh, se il giorno è tenero, la notte mi consuma. Mi sfonda gli argini del vino in questa bocca. Perché ho ancora la tua lingua incastrata tra i miei denti. Sì, ho ancora la tua lingua incastrata qui fra i denti miei. Con quanta rabbia ancora rido, quanto deserto ancora vedo. Se il vuoto è immenso, allora che circondi il sole per oscurare ogni mia navigazione. Perché ho ancora la tua lingua incastrata tra i miei denti. Sì, ho ancora la tua lingua incastrata qui fra i denti miei. Visibili perché è la nostra e la vostra visibilità che porteranno al cambiamento, visibili perché la nostra e la vostra visibilità potranno aiutare chi ha troppa paura per uscire dall'ombra, per essere liberi, e rumorosi perché il silenzio e l'omertà a volte uccidono più delle pistole, perché ci siamo stancati di essere e di rimanere inascoltati, perché una chitarra distorta, un basso elettrico e una gran cassa prendano a calci omofobi, bulli e sessisti. Since Low Kids from Perugia, infatti si può anche intuire ad un orecchio attento Forse non è la felicità, come prima il brano Ignoranza si cantava Non saremo liberi, infatti Nerezza invece di sentire i soliti accenti milanesi o romani, e saranno loro gli headliner di questa edizione 2017 dell'Indie Pride. E adesso che siamo arrivati alla fine di questa trasmissione dedicata a questo evento importantissimo per chi ama la musica indipendente e per chi ha una opinione perlomeno ragionevole e normale, e uso apposta questa parola, nei confronti dell'omosessualità, e un'opinione di condanna altrettanto logica e ragionevole nei confronti dell'omofobia, del sessismo e del bullismo, e ho deciso di mettere come sigla finale un pezzo dei Management del dolore post-operatorio, Il mio corpo, che sembra proprio la canzone manifesto, potrebbe essere la canzone manifesto dell'Indie Pride, in quanto si rivendica una indipendenza e autodeterminazione dell'uso del proprio corpo e che nessuno può permettersi di dettare leggi sul suo uso. E con questo vi invito all'ascolto di questa canzone e spero che ci sia tanta gente che sappia le parole e che la canti in coro sotto il palco del TPO per sabato 28 ottobre per Indie Pride 2017. Ciao da Claudia Mighty Mau, buon ascolto su Radio Kairos. Decidere.